Essere e benessere di Nicoletta Carbone. I've seen plenty of them. My mom was always a big Hitchcock fan, mm-hmm. and so I think the first time I saw Psycho I was probably 7 or 8. Chi sta parlando? Di chi è questa voce? È una voce femminile, credo che fino a qui siamo tutti d'accordo, ma è una donna giovane o matura, bionda o bruna, esile o più morbida? Sentiamo. I've seen plenty of them. My mom was always a big Hitchcock fan, mm-hmm. and so I think the first time I saw Psycho, ma questa voce che state ascoltando vi piace, vi ispira simpatia, vi incuriosisce, vi infastidisce, vi lascia del tutto indifferenti? 800 24 00 24, sappiate che è la voce di un'attrice molto famosa che di recente ha dichiarato che la sua voce non le piaceva affatto. Spesso la nostra voce non ci piace, ne vorremmo una diversa, ci piacerebbe più bassa, più calda, più profonda, più armonica, ed è un desiderio che in parte si può realizzare, come lavorando sulla voce per renderla più piacevole. Quindi se la vostra voce non vi piace, 800 24 00 24. Iniziate a chiamarci, ma lo stesso numero vale per chi invece, per più che del suono della propria voce, vuole occuparsi del benessere della voce, della sua salute. Ad esempio, può capitare che la voce si abbassi all'improvviso. Io ne so qualcosa, chi mi ascolta da anni sa che sono Carmelo, se la ride ancora, io sono rimasta senza voce improvvisamente, che diventi roca, che sia intermittente, che manchi, che si veli e poi si ripigli. Se vi capita, date voce alla vostra voce, tutti i segnali che vi manda 800 24 00 24. Impareremo insieme ai nostri esperti a capire se la nostra voce sta bene, se è affaticata, e soprattutto come fare per farle ritrovare benessere o mantenerlo se sta bene. 800 24 00 24 349 238 6666. Se preferite invece mandarci un messaggio, e come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Buongiorno al professor Franco Fussi, foniatra, otorinolaringoiatra, responsabile centro foniatrico USL di Ravenna. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Professore, com'è la voce di donna che abbiamo appena sentito? Lei che di voce se ne intende? È una bella voce? È una voce particolare, è una voce che nell'immaginario collettivo considereremmo sexy, nel senso che ha questo fondo di leggera raucedine e questo aggravamento tonale, cioè una tonalità particolarmente bassa, quindi non eccessivamente femminile, ma che nell'immaginario appunto viene considerata come caratteristica vocale, questa leggera raucedine, questo aggravamento tonale, come particolarmente sensuale. Di solito queste voci sono voci usurate dall'abitudine al fumo o all'alcol, e normalmente c'è da dire però che i maschi in generale preferiscono voci leggermente velate e di solito brillanti, quindi più argentine, più femminili, no? Perché sono più rassicuranti, e quindi direi che la voce che abbiamo appena ascoltato apparterebbe di più nell'immaginario a una figura di donna amante rispetto invece alla donna sposa rassicurante, che dovrebbe avere una voce più brillante, più chiara. 800 24 00 24, se volete mettervi in contatto con noi, cercheremo di capire però anche qual è la voce che piace di più alle donne, professor Fussi, perché sì, lei ha raccontato un po' le preferenze degli uomini, mentre alle donne piace una voce? No, anche alle donne una voce più chiara, più pulita, più femminile in effetti, perché poi è quella che con cui si vendono di più, diciamo. Parliamo, usiamo la voce continuamente. Secondo una ricerca dell'Università del Maryland, professor Fussi, io non lo so, non mi tornano i conti, le donne direbbero circa 20.000 parole ogni giorno, mentre l'uomo solo 7.000, ma è possibile? È vero che c'è una prevalenza di eloquio nella voce femminile, perché proprio nella modalità di comunicazione la donna, usando sia più gestualità ma anche più comunicazione verbale, usa più parole in effetti. Però insomma questa differenza mi sembra un po'... Senta, a proposito, voce maschile e voce femminile, due voci insomma diverse, basta sentirle, che hanno di solito problemi diversi? Punti di fragilità particolari? quali voci? La voce femminile rispetto alla voce maschile. Cioè ci sono delle, patologie che, se vogliamo, più di genere per la voce? Di genere? Beh sì, direi di sì, perché per esempio il cosiddetto, c'è una patologia che si chiama edema di Rank, che è prevalentemente espressa nel sesso femminile, perché dipende dalla concomitanza di tre fattori, che sono la ritenzione idrica, quindi la donna ne soffre ovviamente di più, e insieme al punto alla tachila, cioè al parlare tanto, lo abbiamo appena detto, e unito il tutto ad eventuali utilizzi di sostanze, del fumo in generale. Quindi questa è la concomitanza di questi tre aspetti, fumo, ritenzione e il parlare tanto, determina una congestione della sottomucosa, cioè le corde vocali si gonfiano, pesano di più, quindi nell'unità di tempo vibrano di meno e ci danno un aggravamento tonale caratteristico di alcune voci femminili, proprio quelle voci un po' così alla Lina Volonghi, oppure quelle voci che parlano molto, molto basse, che vengono a volte scambiate poi per telefono per uomini, voci maschili, in effetti. Comunque, donne e uomini parliamo parecchio, non sempre nelle condizioni migliori, penso, professore, a chi parla in ambienti rumorosi, a chi parla per ore, come chi lavora nei call center, penso agli insegnanti, anche alle nostre ragazze del centralino, sempre pronte, sorridenti, a rispondere a chi chiama il nostro numero verde, e quindi che voi ascoltatori di Essere e Benessere non solo conoscete bene, quindi continuate a chiamarle. Ma professore, parlare a lungo costringe il nostro apparato vocale a un super lavoro, questo è chiaro, ma possiamo provocare sofferenza alla nostra voce anche in altro modo, usando male la voce. Esatto. E lo facciamo anche senza accorgercene. Ci aiuti un po' lei a capire quando e perché? In questo caso stiamo parlando di due aspetti, di due fattori che provocano poi la disfonia, cioè l'alterazione della voce, che sono appunto il surmenage da un lato, cioè il super lavoro vocale che siamo costretti a fare perché magari abbiamo un'attività lavorativa che ci impegna molto vocalmente, e su questo sicuramente danno dei problemi gli ambienti, nel senso, se c'è una cattiva acustica e sono costretto a parlare in un ambiente con una cattiva acustica, metto più a repentaglio il mio organo vocale. Se nell'ambiente c'è un'umidità relativa scarsa, anche in questo caso lavorerò in condizioni di mucose più asciutte, quindi farò faticare di più il mio organo vocale. Al di là del surmenage però c'è anche il comportamento vocale che io abitudinariamente ho nella gestione del mio apparato vocale, che può essere migliore o peggiore, quindi posso avere una cosiddetta eufonia da un punto di vista così istintivo, quasi come se fosse una dote genetica, ad essere più portato di un altro a mettere in buon rapporto la mia respirazione diaframmatica, il mio uso dei risuonatori, quindi saper proiettare istintivamente la mia voce, quindi affaticarla di meno, oppure invece avere un comportamento scorretto, e nel caso in cui ad esempio debba alzare l'intensità lo faccia non sfruttando le mie cavità di risonanza, ma lo faccia proprio aumentando la spinta sulle corde vocali, e quindi durante la loro vibrazione creare delle lesioni o delle collisioni sul bordo delle corde, che creano poi delle patologie più o meno transitorie o più o meno stabili. Poi quello dipende appunto da quanto tempo fonatorio devo impiegare durante la mia giornata e da quanto male lo faccio. Continuiamo a parlare della salute della voce, parleremo anche della difficoltà che molte persone hanno nell'utilizzare la voce in pubblico. Parlo delle persone che devono magari affrontare delle relazioni, oppure banalmente che si sentono imbarazzate quando devono intervenire in una cena tra colleghi. Quindi ci occuperemo della salute, del benessere della voce, ma anche di come utilizzarla bene, quindi senza sforzarla, e anche delle difficoltà che utilizzare la voce può darci in alcune situazioni. Andrei a sentire la voce dei nostri ascoltatori, a Daniela da Bergamo e Isabella da Bari. Daniela, buongiorno, mi faccia sentire la sua voce. Sì, eccomi, sono Daniela e sono presente. Lei ha chiamato, Daniela? Io ho chiamato perché la voce che avete fatto ascoltare prima dell'attrice la trovo, come dicevo, al centrale, una voce intrigante. Intrigante, la risentiamo, Carmelo? Che così arrivano. Non è quella di Sharon Stone e non è neanche quella della Roberts. I've seen plenty of them. My mom was always a big Hitchcock fan, and so I think the first time I saw Psycho I was probably 7 or 8. Really nice family film. Yeah. Allora, Daniela, il professor Fussi dice che è una voce di donna che piace agli uomini, e ha fatto un po' una distinzione dicendo è la tipica voce d'amante, almeno nell'immaginario. Secondo lei? Charlize Theron. Mi dicono no, che non posso passargliela, ma darò delle indicazioni nel corso della trasmissione. Intanto, professor Fussi, Daniela, lei è in grado di dire se ha una voce ben tenuta o un po' stressata? È leggermente stressata, nel senso che da un punto di vista qualitativo il timbro non è ricchissimo di armonici, quindi si sembra una voce un pochino in affeticamento, forse la utilizza molto. È comunque giusto l'indicazione, l'aggettivazione intrigante per la voce che abbiamo ascoltato, proprio per quanto avevamo detto prima. Isabella, buongiorno, ci chiama da Bari. Buongiorno. Attenta, attenzione perché ci sono orecchie che ci ascoltano, eh. Al professor Fussi non, basta un piccolo respiro, una vocale meno, e su lui subito si accorge come sta. Isabella. Salve, buongiorno. Vede? Bella, chiara e fresca. Sta bene, vero, la voce di Isabella, professor Fussi? Sembra di sì, appena appena un'inclinatura alla fine, forse un po' raffreddata. No, in realtà un po' emozionata, devo Ah, dire. ok, certo. Quello ci sta, Isabella, mi dica. Allora, io chiamavo perché faccio un lavoro che mi porta spessissimo a dialogare con le persone di persona o al telefono e di sovente mi capita di dover schiarire la voce, proprio di dover fare dei colpi di tosse, piccoli colpi di tosse che però mi aiutano a sbloccarla perché insomma proprio non riesco quasi più ad emettere suoni. Quindi volevo capire come posso affrontare questo problema che spesso insomma di persona mi porta poi a dovermi scusare in continuazione per la mancanza di voce e cosa posso fare. Ecco. Grazie Isabella, bellissima domanda. Sì, lo schiarire la voce che tecnicamente noi chiamiamo raclage, il raschiamento della voce, nasce dalla necessità di pulire la superficie delle corde vocali da depositi di muco addensato che quindi denuncia una disidratazione delle mucose. Questo può essere poi il motivo per cui la mucosa è disidratata, il muco si appiccica, diciamo, tra virgolette, sulle corde vocali, può essere causato o da situazioni di disidratazione personale o dell'ambiente. Po' scarsa umidità dell'ambiente, oppure più facilmente, più spesso, da presenza di reflusso gastroesofageo che creando attraverso la risalita dei vapori di acido cloridrico in laringe questa asciuttezza delle mucose, ma anche un po' di irritazione delle mucose, ha come sintomo tra i principali appunto proprio il raclage. Quindi alla nostra Quindi i non sappiamo se è caduto il professor Fussi, che forse lo recuperiamo. Intanto abbiamo Giuseppe dalla provincia di Palermo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, salve. Le piace la voce che abbiamo ascoltato? Perché? Praticamente io sono un amatore, no, non sono un cantante, però mi succede alcune volte che quando vado a fare qualche piccolo spettacolo, la mattina mi sveglio con una voce molto molto bassa, che a me piace tantissimo, perché amo Johnny Cash, il famoso cantante country americano. E se c'è qualche cosa per esercitare, qualche esercizio per esercitare la voce a diventare un po' più bassa? Lei la vuole più bassa. Sì, a me piacerebbe tantissimo. E, lei è sposato? Sì. E sua moglie cosa dice della voce bassa? È Mia moglie è contenta? contenta della voce bassa, anche perché mia moglie è di origine messicana. Io voglio cantare anche delle canzoni dei mariachi dove ci sono dei famosi cantanti. Fernandez, eccetera, eccetera. E insomma, e canta anche delle serenate a sua moglie con questa bella voce? Quando ci siamo sposati, gli ho cantato la serenata, però ho sbagliato finestra ed era mia nonna. Questa era una cosa comicissima. Giuseppe, allora, intanto è tornato il professor Sì, Fussi, eccomi, sì. Mi avevate sentito prima? L'avevamo sentita ma persa, e Ah, intanto noi ok. abbiamo trovato Giuseppe dalla provincia di Palermo, Sì. che canta, non so se lei ci ha sentito, No. e al mattino ha una voce piuttosto bassa, soprattutto dopo che ha cantato la sera, ma a lui piace la voce bassa, vero Sì. Giuseppe? E Sì, questo ha ho riassunto bene. tantissimo. Allora chiedeva a lei di qualche indicazione. Sì, la voce bassa, sento un timbro comunque abbastanza scuro, quindi comunque ha un'estensione del basso baritono, sarebbe forse probabilmente il classico crooner o potrebbe fare un tributo a Mario Biondi. Il problema della voce un po' ingrossata al mattino di solito è in relazione al fatto di magari andare a letto troppo tardi, quindi dormire poche ore, quindi è un problema proprio muscolare, oppure anche l'abitudine al fumo, per cui in questo caso le corde si ingrossano. Nella difficoltà mattutina a utilizzare una voce in maniera fluida e subito pronta, ci possono essere dei rimedi che sono risvegliarla un po'. In fondo è come se la nostra voce fosse un po' diesel e quindi abbiamo bisogno di fare un po' di riscaldamento vocale per portarla subito in posizione corretta. E una cosa utile potrebbe essere, per esempio, a bocca chiusa con le labbra unite, cercare di contare fino a 100, una cosa del tipo, tenendo le labbra unite in maniera tale da riscaldare i nostri risuonatori, quindi poi quando andremo a parlare troveremo una migliore posizione e una maggiore facilità di emissione del suono. Abbiamo Giuseppe che ci chiama da Varese. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, mi racconti? Beh, il mio problema è che io quando dialogo, quando parlo, ho una voce come quella che sente. Nel momento in cui mi trovo a parlare ad un microfono per varie ragioni o cose di questo tipo, mi sparisce completamente la voce, ma per me io sto parlando regolarmente e tutti mi dicono che sentono la mia voce tremare, cose di questo tipo. Beh, professor Fusti, sarà un problema di microfono. No, ma probabilmente anche un problema di emotività, nel senso che se sono in imbarazzo c'è una tensione muscolare perché mi sento la responsabilità di quello che devo dire, che devo pronunciare. Insomma, mi trema un po' la voce. Sì, va un po' in contrazione e quindi un pochino mi ritrovo a parlare senza rendermene conto, in una condizione di costrizione un po' alla Fantozzi. Ecco, e se anche voi, come Giuseppe, vi trovate in difficoltà quando dovete affrontare un pubblico, restate con noi, chiamate l'800 24 00 24, potete proprio esercitarvi parlando in pubblico, parlando ai microfoni di Radio 24, il professor Fussi vi darà delle indicazioni sulla vostra voce, se è troppo stressata, come potete fare per mantenerla bene, ma ci raggiungerà un'esperta che ci racconterà qualche trucchetto per tenere a bada l'emotività che ci sorprende quando dobbiamo parlare in pubblico. Professor Fusti, volevo sottoporle alcuni rimedi che sono suggeriti qua e là su internet per restituire alla voce il suo benessere, soprattutto quando è velato, se ha la raucedine, si abbassa un po'. Lei mi dica se vanno bene, sì. Se è vero e falso. Acqua calda e miele. Acqua calda e miele, allora il miele è un emoliente, però dobbiamo ricordare anche che può anche essere un po' irritante per le mucose, quindi prima di sostenere una fonazione o anche di cantare, il miele no, il miele è benefico ma va preso lontano dalla prestazione vocale, eventualmente ci sono mieli anche specifici con oli essenziali benefici che hanno un valore, un'azione sfiammante. Come ad esempio il miele all'eucalipto, alla malva, al tiglio. Okay. La liquirizia. La liquirizia, a parte che ci alza un po' la pressione, però è un buon antisettico e un buon emolliente, quindi ha un'azione sfiammante. L'erisimo, detta anche l'erba dei cantanti. L'erba dei cantanti, o Sisimbrium officinalis nel termine latino, è un batteriostatico, un antinfiammatorio, quindi lenisce gli effetti di uno stato infiammatorio, quindi migliora la voce quando c'è un'infiammazione. Infatti attenzione, ci sono molti cantanti che usano l'erisimo come prevenzione. L'erisimo non va usato come prevenzione, ma va usato soltanto quando c'è una raucedine causata da uno stato infiammatorio. Quindi evitiamo di prendere l'erisimo così. Stiamo bene, perché indurisce le corde vocali. Ah, addirittura. Addirittura è peggio. Nocivo. Senta, professore, io ho trovato, sembra strano, ma è riportato più volte, il gargarismo con centrifugato di Ravanello. Ah sì, l'ho sentito. Veramente? Sia io ho detto il io così. Anche il decotto di centrifugato di Ravanelli. Perché il Ravanello, anche questo, ha un'azione antisettica ed emoliente, un po' come le altre sostanze che abbiamo detto prima, quindi ha un antinfiammatorio. E quindi funziona anche il Ravanello. Se lo dice il professor Fusti, ci fidiamo. Come si può lavorare sulla voce, su quelli che sono i caratteri della voce, quindi ad esempio il timbro, l'intensità, ne parliamo tra poco. Se la vostra voce in qualche modo, insomma, non vi soddisfa, Restate con noi, parlate al nostro numero verde 800 24 00 24, mercati, e poi torniamo di nuovo insieme con Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica. Essere e benessere. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado. Uno. Nella conca! Svedese! Muovi! Padotti, è lei? Fateci sentire la vostra voce 800 24 00 24. Ne parliamo oggi, ne stiamo parlando col professor Franco Fussi per dare consigli per rendere la voce, mantenere la voce sana o farle recuperare benessere, e soprattutto lavorare sulla voce, sui suoi caratteri, tono, timbro, intensità, che giocando un po' sulle parole danno carattere alla nostra voce, la rendono unica. Professor Fussi, sono qua. È possibile, ad esempio, cambiare, lavorare per rendere... Ci sono degli ascoltatori che mi scrivono: la mia voce è troppo alta. Un ascoltatore mi scrive: al telefono mi scambiano sempre per una donna. Ma allora, c'è l'ascoltatrice che mi racconta la cosa opposta. Spesso sì, mi scambiano per un uomo. Allora, sì. I parametri vocali sono l'altezza, l'intensità e il timbro. L'altezza tonale, quindi la nota su cui tendenzialmente tendiamo a parlare, che può essere più acuta o più grave, quindi più acuta immaginata più femminile, più grave immaginata più maschile, e che può appunto non corrispondere all'età e al sesso del soggetto quando ci siano delle alterazioni che la fanno vibrare su frequenze non adeguate, non adatte. Allora in questo caso noi possiamo fare comunque una valutazione logopedica, foniatrica del caso, e vedere se è un problema organico o disfunzionale. Nel caso della disfunzionalità, modificare i nostri parametri vocali, imparare insomma a usare la nostra voce in maniera più corretta e quindi renderla più adeguata, più convincente, più piacevole. Perché un esercizio è un allenamento. È sicuramente un allenamento per imparare appunto a coordinare bene il nostro respiro, la funzionalità della nostra laringe e soprattutto sfruttare meglio le nostre cavità di risonanza, che sono un po' il megafono della nostra voce, cioè gli spazi aerei che permettono di proiettare la nostra voce in distanza senza affaticarci. Devo fare riascoltare la nostra voce di donna, una voce molto bella, intrigante, come ha suggerito una nostra ascoltatrice. Il professor Fussi dice una voce che rimanda un po', no, all'idea di amante. Le compagne stabili hanno una voce un pochino più rassicurante, quindi un pochino più alta, professor Fussi? Si, esatto, dice così. Prima. Più acuta, sì. Sentiamo, e vi dico già che non è Madonna. I've seen plenty of them. My mom was always a big Hitchcock fan, mm-hmm. and so I think the first time I saw Psycho, I was probably 7 or 8. Mm-hmm. Really nice family film. Yeah. Always appreciated his work, and when the script came però out. Però vi dico che è bionda, che ha lavorato con Woody Allen per un film molto carino che si chiama Match Point. Adesso vi ho detto tutto. E vabbè, Carmelo, insomma. Ci siamo quasi, 800 24 00 24, ma professor Fussi, a parte questa voce che è di grande successo, noi vogliamo lavorare sulla nostra voce e capire, ci sono delle situazioni in cui la nostra voce cambia, diventa più sottile o ha altri segnali, quali sono i campanelli d'allarme che ci fanno capire che la nostra voce è cambiata perché dietro c'è un problema alle corde vocali, all'apparato fonatorio? Penso ai noduli, ai polipi. Sì, sì, sì. Beh, la voce che sicuramente diventa velata, quindi c'è una componente di aria nel suono, stimbrata, cioè perde armonici, cioè perde sonorità in fondo, oppure che si spezza, che si interrompe, che si brecca, diciamo noi, che ha dei momenti di alternanza tra una qualità normale, magari dei momenti in cui si spezza un attimo il suono, no? Come sto facendo in questo momento io, cioè delle alternanze tra suono e non suono. Questa interruzione è un'interruzione di vibrazione proprio della corda vocale, vocale, e di solito può essere o per l'interferenza di un grumo di muco che occasionalmente blocca la vibrazione della corda, oppure invece in maniera più seria per una lesione di superficie delle corde vocali, che può essere un piccolo polipo, cioè una piccola ernia aggettante sul bordo libero, che impedisce in alcuni momenti di far vibrare la corda vocale. Quindi questo è un evento che ovviamente si ripete perché il polipo è presente, e quindi in questo caso va diagnosticato e eventualmente rimosso chirurgicamente. Ecco, quando parliamo di noduli e di polipi noi ci allarmiamo sempre, perché è sempre qualche cosa che va, no, diagnosticata, indagata, a volte rimossa. Sì, sono comunque lesioni benigne normalmente, i noduli e i polipi, e i noduli sono possiamo considerarli come dei degli investimenti, dei calletti bilaterali del punto dove le corde vocali collidono regolarmente, e quindi si formano questi spessimenti che non ci fanno vibrare bene le corde vocali, non le fanno soprattutto addurre, cioè avvicinare sulla linea mediana bene, quindi c'è una mancanza di tenuta glottica e quindi c'è una disfonia, c'è una raucedine. E i noduli sono quindi comunque l'evento cronico di un malutilizzo della voce nel tempo. Consideriamo che l'8% della popolazione infantile, i bambini che vanno a scuola, ha noduli alle corde vocali, perché sono normalmente i bambini molto vociferanti e sforzano molto la loro voce. Parimenti anche le loro insegnanti, che sono costrette a parlare 5-6 ore al giorno, e quindi magari se non hanno un buon comportamento vocale nel tempo tendono a formare queste nodularità. Mentre invece il polipo è un evento acuto, uh-huh, che può essere anche legato a uno sforzo momentaneo, cioè il una tifoso, litigata furiosa, esempio, un urlo, quindi c'è un'erniazione del bordo della corda e si forma appunto questo polipetto. Quindi non farmi urlare, non farmi venire i polipi, ormai potremmo dire. Luigi da Monza, Claudio da Napoli, buongiorno a tutte e due, ma precedenza Luigi, benvenuto. Sì, buongiorno a voi e al suo ospite. Senta, io ho appunto subito un intervento il mese scorso alla corda vocale, quella destra, per un polipo. Voi parlavate prima di rumori di fondo, e chiaramente operando nell'edilizia sono a cielo aperto nei cantieri, e comunicare con i miei colleghi non è sempre facile. Appena subito l'operazione, adesso tra 20 giorni mi hanno detto di ritornare per una visita di controllo, ma noto già una disfonia di nuovo della voce, e ahimè io con la voce ci lavoro. Vorrei chiedere al professore cosa posso fare per cercare di tutelare un po' la voce con degli esercizi, o non so, a questo punto non parlerò più con nessuno. No, Luigi, alternativa. No, Luigi, parli con me. Professor Fussi. Sì, dovrà sicuramente rivolgersi a un logopedista per fare una serie di esercizi per imparare anche a proiettare la voce, visto che nel suo lavoro deve usare intensità vocali elevate, e sono state sicuramente queste le cause della formazione del polipo. Dovrà comunque appunto apprendere delle modalità più economiche, più funzionali di utilizzo della sua voce, proprio per imparare a urlare senza farsi più male, quindi avere un'azione così preventiva su eventuali recidive di polipi. Claudio da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. A me succede una cosa strana, che stamattina anche dalle 8 fino a mezzogiorno rimango con questa voce cupa, e qualche volta qualcuno che mi chiama a casa dice: ma stavi dormendo? E poi spesso... E invece lei è sveglio da parecchio tempo. Anche da 4-5 ore, come adesso, insomma, però non è la mia voce si schiarisce nel pomeriggio, dopo i pasti. Ma neanche se prova a stare un po' su di voce, possibile? Prima ho fatto degli esercizi che suggeriva al professore, contare a bocca chiusa, insomma, non ha funzionato. Allora, professor Fussi. Beh, sicuramente c'è una ipofonia, un'ipotonia di fondo, perché sentiamo una voce, no, tra virgolette, stanca, quindi è una voce, come dicevamo prima, un po' diesel. È chiaro che quello che avevamo suggerito prima è un esercizio semplicemente per riscaldare la voce in condizioni normali. In questo caso dobbiamo valutare perché è ipotonica, e quindi se è un fatto muscolare, se è legato a poche ore di sonno, quindi se c'è un ipotono generalizzato della muscolatura, e comunque anche in questo caso rivolgersi ad una logopedista previa visita foniatrica o previa visita otorino, che possa comunque garantire che non ci siano patologie. Professore, ma dato che Claudio ha fatto l'esercizio e non ha funzionato, diamogliene uno proprio specifico per lui, che così lo suggeriamo anche ai nostri ragazzi quando vanno a scuola davvero assonnati. Un altro esercizio può essere quello di salire leggermente l'altezza tonale con le cosiddette sirene, quindi a bocca chiusa cercare di portare i suoni un pochino verso gli acuti, un po' nel naso, tipo cercare di sentire la voce che viaggia verso i risuonatori superiori, verso le cavità nasali, e anche poi parlare, fare delle conte seriali tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino quasi a usare un pochino un registro di falsetto per alleggerire il timbro e anche tonificare longitudinalmente le nostre corde vocali. Queste corde vocali in post-anche hanno bisogno di tonificazione longitudinale, quindi di esercizi di stretching, una specie di stretching. Bella, mi piace. Claudio, ha capito? Claudio è andato già via. Allora Claudio, speriamo che faccia gli esercizi con la sirena. 800 24 00 24, subito dopo le informazioni sul traffico parleremo con un'esperta che ci insegnerà a tenere a bada quell'ansia, quella paura che ci fa tremare la voce quando dobbiamo parlare in pubblico. A tra poco. Essere e benessere. Fammi sentire la voce, fammi vedere la luce. Quando dovrebbe farci fare bella figura ci molla. Capita quando siamo emozionati, la voce dà il peggio di sé. A volte sparisce, si vela, si spezza. Parlare in pubblico, prendere la parola durante una riunione, in classe, in una cena tra persone con cui non siamo in confidenza, una cena di lavoro, ci mette in difficoltà. Ma in linea con noi abbiamo la dottoressa Anna Maria Cimino, buongiorno, logopedista e counselor, che ci dà una mano per vincere questa emozione. Dottoressa, siamo nelle sue mani, mettiamo la voce nelle sue mani, ma soprattutto le nostre emozioni. Sì, in realtà le emozioni fanno parte di noi, quindi in genere quando parliamo, quando ci troviamo in pubblico, il modo proprio per esprimerle avviene attraverso un abbassamento di voce, oppure una voce rauca, oppure ci si blocca il respiro, e quindi in queste situazioni la prima cosa che ci accade è che cominciamo a non sentirci più sicuri, oppure immaginiamo che il nostro interlocutore possa sentirci più fragili. Certo, quindi, perché sappiamo che la voce è un po' la nostra carta d'identità. Sì, la voce è la nostra carta d'identità, il nostro modo di essere al mondo, quindi insieme al volume della voce e all'articolazione c'è sicuramente tutto il nostro mondo emotivo che emerge. Allora, quindi, dottoressa Cimino, consigli pratici mirati per chi deve affrontare una situazione, deve parlare in pubblico magari nelle prossime ore, nei prossimi giorni e vuole andare preparato. Bene, la prima cosa è bisogna stare proprio in contatto con se stessi. Molto spesso noi pensiamo, e quando pensiamo alla voce o alle emozioni ci distraiamo e ci viene il panico. Quindi prima di tutto ascoltare il respiro. La prima cosa che in genere ci accade è che la nostra bocca diventa secca, e quindi bere un bel bicchiere d'acqua, idratarsi, essere in una condizione di tranquillità, fare qualche respiro col nostro diaframma, quindi col nostro addome, ascoltare il respiro e a fare anche dei colpi di diaframma, giusto per permettere di sentire che ci siamo, appoggiando bene per esempio i piedi per terra, perché tutto il corpo, quando noi parliamo è tutto il corpo che è coinvolto, e quindi sentire i piedi per terra ci fa sentire un po' più sicuri di fronte al pubblico. Quindi sentire il respiro, sentire e cominciare anche a tener conto di quella che è l'articolazione, perché quello che accade molto spesso è che si blocca il respiro, oppure si abbassa il volume della voce, e in genere c'è anche un'articolazione un po' bloccata, un po' rallentata. Quindi fare amicizia facendo degli esercizi, magari delle smorfie, dei suoni, articolandoli anche in maniera esasperata, questo ci permette di riprendere contatto col nostro corpo prima di esporci al pubblico. Quindi qualche ora prima, anche qualche giorno prima, noi possiamo fare anche questi esercizi. E anche qualche minuto prima dobbiamo bere, giusto? Bere. Poi ci viene la bocca secca, quindi perfetto. Evitiamo i piedi, anche se siamo seduti possiamo piantarli ben anche per seduti. Terra, perché questo dà sicurezza. Esatto. Controlliamo la respirazione. So che tutte queste cose dicono, ma io poi ho paura, come faccio a controllare tutto questo? Si inizia da una cosa. La pancia, se si muove, vuol dire che già i piedi per terra, la voce esce in modo diverso. Ascoltare il respiro permette già di allentare la tensione, quindi si abbassa la tensione e la voce diventa più fluida. Un'altra cosa importante è sentire l'emozione, anche dirsi ad alta voce prima di entrare, come dire, di andare in pubblico, dire sono emozionato, ma posso gestirla questa emozione. Fare questo significa già abbassare la tensione, abbassare l'ansia e riuscire a recuperare il proprio volume della voce, la propria proiezione vocale e quindi riuscire a parlare in una maniera più fluida e assertiva con le persone che ci sono di fronte. Ecco, e poi se la voce vi trema... Esatto. Ecco, pensa, non tutti l'avranno colta, per cui non fissatevi, oddio, la voce me ne trema, allora gli altri pensano che, ecco, magari c'è qualcuno che vi sta sentendo distrattamente e non sta cogliendo, no, questo dettaglio. Ma tra l'altro la voce che trema molto spesso è più bella e seducente, perché sta trasparendo quelle che sono le emozioni, l'onestà, l'autenticità della persona, quindi molto spesso noi attribuiamo al tremore, al tremolio, un'esperienza negativa, un'immagine negativa di noi, invece sta dicendo che siamo noi stessi e quindi va molto bene, quindi possiamo proprio rassicurarci dicendo ok, respiro, la mia voce trema, io sono autentico, ci sto e l'altro mi sente. E questo è molto, immediatamente la voce migliora. Sì, è molto rassicurante, ma ha anche un risultato, un'influenza proprio sul corpo, per cui si abbassa la tensione muscolare, la laringe è più rilassata, gli organi fonoarticolatori come la bocca, la lingua, il palato è tutto molto più rilassato e la voce diventerà più armonica e più udibile, più accogliente anche per chi la riceve. Grazie dottoressa Cimino per essere stata con noi, per questi consigli. Buona giornata, buona voce, buona respirazione. Maximilian dalla provincia di Reggio Emilia ha per noi il nome della voce. Buongiorno. Buongiorno, salve. Chi è? Io credo che sia Scarlett Johansson. Ed è proprio lei. Da che cosa l'ha capito? Ma io guardo sempre film in lingua originale e ho visto di recente il film Hitchcock dove l'attrice ha la parte diciamo della donna sotto la doccia nel film Psycho. Comunque, e l'intervista parlava di questo. Sì. E comunque Alessandra da Pisa ci scrive che Scarlett Johansson sarebbe sexy anche muta, forse anche di più, però questa è una cosa tra donne, si dice così. Bravo Maximilian, riceverà a casa un libro della libreria di Essere Benessere, così come il primo ascoltatore che ha inviato un messaggio al 349-238-6666 con il nome giusto di questa voce. Professor Fussi, grazie. Abbiamo parlato a lungo, lei è un po' stanco. Quindi una voce indubbiamente sexy, come avevamo detto. Fantastico, professore, ma è magnifico, no? Tutto questo. Sì, bene, sì. Torni presto a trovarmi. Grazie, okay. Professore. Arrivederci, grazie. Allora, invece noi abbiamo ancora un minutino per raccontarci che domani io torno normale qua, potete sentirmi alle 11, avrò due ospiti in studio, state pronti soprattutto se state pensando di ricominciare a fare un po' di attività fisica, magari avete ancora in dubbio quale attività scegliere, se fare Pilates, se andare in palestra, se andare a correre, e noi ci siamo. Ma da lunedì 7 io sarò sempre in onda con Deborah Rosciani, parte Cuore Denari. La prima parte dedicata alla salute, la seconda naturalmente dedicata a soldi, risparmi. Le due anime, soldi e salute, si intrecceranno e noi cercheremo di portare l'attualità ogni giorno nelle vostre case, raccontando dei consigli con i nostri esperti di salute, e Deborah ci aiuterà a risparmiare. Quindi rimaniamo sempre noi, Deborah e Nicoletta, che entrano nelle vostre famiglie per parlare dei temi di cui più spesso si parla a casa. Soldi e salute, forse parleremo anche di sesso, che tra l'altro è un indicatore di buona salute. Che cosa vi stavo dando già il nostro numero verde? No, invece vi mando sul nostro profilo Facebook. C'è una chicchina, una sorpresa per voi. Potete andare lì, potete anche già scriverci, Laura? Sì? Anzi, no, mi raccomando, scriveteci, perché a me trema un po' la voce a pensare che lunedì alle 11 insieme a Deborah Rosciani sarò qui per Cuore e Denari. Buona giornata, a domani! Essere e benessere.